Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti alla nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo con il maxi testamento a Milano, lotta giudiziaria contro l'idrovora clericale, il solito finto testamento. Dal giorno del 30 luglio, maxi lascito alla Chiesa, duello sul testamento. La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, valutare bene la volontà della donna. In pratica gli eredi negano che la donna abbia voluto dare soldi alla diocesi. La diocesi invece, nonostante sia ricchissima, tanto che tiene nascosto il suo bilancio, vuole ancora sempre più soldi, sempre più soldi. Da Cronaca Vera luglio 2020, il caso di Don Paolo Ganzer, da Calenzano Firenze. Ha trovato un giudice di manica larga, dimezzata la condanna a un ex sacerdote orco pedofilo. Ora ricorrerà in Cassazione per un ulteriore sconto di pena. In primo grado 4 anni e 4 mesi, ora dimezzati. In appello ha accolto il ricorso dei legali dei genitori della vittima del prete pedofilo e stabilito che il religioso dovrà risarcire. Buone notizie da Arese in provincia di Milano, vittoria anticlericale, chiude il centro salesiano, chiude la scuola media, sempre meno iscritti. A San Stino di Livenza, notizia data oralmente il 31 luglio in una riunione UAR, a San Stino di Livenza, Venezia, la San Vincenzo dava aiuti con criteri discriminatori. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. Dal sito dell'UAR a ragion veduta, viviamo bene senza Dio e possiamo dirlo. La Cassazione accoglie il ricorso dell'UAR. Non possiamo che essere contenti e più che soddisfatti dell'ordinanza della Cassazione, che riconosce il diritto degli atei e degli agnostici di essere tali e di poterlo dire. Disgrazie clericali, incendio della cattedrale di Nantes in Francia, rilasciato il sacrestano. Da Wikipedia in spagnolo, testes habet et bene pendente. Wikipedia in spagnolo si chiama Wikipedia. C'è anche l'illustrazione dell'esame dell'habet testis, cui devono sottoporsi tutti i candidati papabili per essere, prima di essere intronati pontefici, in quanto dopo lo scandalo della papessa Giovanna evidentemente non si fidavano più e quindi il cardinale più giovane doveva controllare se era veramente uomo. Il poster shock censurato di Achille Lauro. Negata la fissione in Corso Como a Milano. Il comune se ne tira fuori. Il nostro parere non vincolante. Dal giorno del 24 luglio. Un Cristo bambolotto con le fattezze tatuate di Achille Lauro, ma in hot pants viola e stivali in lattice nero, issato su una croce di Big Bubble, le cicche in voga negli anni 80 e 90. Questa è l'immagine che aveste visto fuori ieri, per chi legge, nel maxi cartellone di Corso Como, ma la pesante mano della censura ha impedito la pubblicazione. Dal piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale qualche voce. Caos di contraddizioni. Lo è tutto quello che raccontano del Dio biblico evangelico i vari ministri di culto cristiani, a causa della loro divisione in una miriade di chiese grandi e piccole. Detto da Johann Most, la peste religiosa. Carrierismo sfrenato, vizio molto diffuso in Vaticano secondo il Deschner, autore della storia criminale del cristianesimo, edita da Ariele, Milano. Casta di oziosi, lo sono i preti, i frati e le suore contemplative così definiti da vari autori anticlericali, dall'ateo del 1997. Casta sacerdotale, fu la prima classe privilegiata nella storia dell'uomo, costituita da pochi presunti eletti interpreti del pensiero divino. L'Inquisizione in Italia. Ricordiamo questo importante libro, edito da Mondadori nel 2006, è un librone di oltre 900 pagine, è in formato però ridotto, e ci ricorda, in questa opera di vastissimo respiro, che evidenzia in maniera inequivocabile il ruolo omicida svolto dalla Chiesa Cattolica in Italia per circa un millennio. Non a caso l'autore scrive di uccisione di eretici e non esecuzione, come ci si aspetterebbe quando si tratta di condanne a morte ordinate da un processo. L'ipocrisia clericale è ben documentata nel libro. Nelle prossime puntate notiziarie andremo avanti a parlare di questa importante opera. Ricordiamo che sul sito www.giordanobrunomi.wordpress.com, alla pagina recensioni, trovate oltre 500 recensioni anticlericali di libri inerenti. Passiamo dal calendario 2020 di Pierino Marazzani alla pagina del clero degenerato. Don John Deham, Australia contemporaneo. Nel 2009 fu condannato al tribunale di Sydney per un totale di 134 reati sessuali, ai danni di ben 39 ragazzi, sodomia e violenza carnale. Faceva ubriacare i ragazzi e ragazzini prima di stuprarli. Invece di pulirlo, la diocesi lo fece responsabile disciplinare della scuola superiore San Pio X di Newcastle, sempre in Australia. Bene, arrivederci alla nuova puntata. Per eventuali comunicazioni 331-730-2874 oppure via mail sul sito del Circolo Giordano Bruno di Milano. Saluti a tutti. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le leggi, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e re. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, la società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. Sono stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era un socialista, e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire, prete, prete, tu mi farai morire. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Dall'archivio storico del Corriere, corriere.it, troviamo 26 aprile 1876 Torino. Condannato il prete che dirigeva il giornale Unità Cattolica per diffamazione contro un altro prete di Fossano Cuneo. 14 marzo 1878, scandalo degli esami truccati all'Università di Napoli. Certo prete B. Punto, noto faccendiere, si faceva pagare 1000 lire per ogni esame superato. Buone notizie da Sondrio. Le salesiane di Don Bosco chiudono la loro scuola. L'ipotesi era circolata già lo scorso mese, dopo l'annuncio della chiusura della scuola dell'infanzia. Le suore salesiane lasceranno la città di Sondrio. Molto bene. Da Il Giorno del 7 agosto 2020, cacciato dalla RAI per uno sketch. È un tramezzino storico su Tognazzi, quindi oltre a Dario Fo scopriamo che anche Tognazzi fu cacciato dalla RAI per uno sketch che aveva preso in giro il presidente democristiano Gronchi. E disgrazia anticlericale, un fulmine anticlericale c'entra in pieno il santuario di Garbagnate Milanese, e centrando sia l'orologio della torre sia le suonerie delle campane. Quindi l'orologio non funziona più, le campane nemmeno, molto bene. Il leghista filocrocifisso Attilio Fontana, camici appaltati al cognato, finta donazione conti esteri, da mesi non ne azzecca una, da cronaca vera del 4 agosto. E l'insegnante di religione, signora Pessina, ex sindaco di Rho, la combinata grossa. Nota insegnante di religione di Rho, finisce su tutti i giornali, il giorno del 6 agosto gli dedica quasi mezza pagina. Insomma, cosa ha combinato? Ha diffamato una nota esponente politica con riferimenti sessuali veramente di cattivo gusto al suo livello di testosterone, siamo a livello proprio miserabile clericale. Il sito del Vaticano sotto attacco cinese, da giallo del 12 agosto. Hacker probabilmente collegati al governo cinese sono infiltrati nel collegamento del Vaticano. Fondi sottratti, tutto nato a giugno da una segnalazione su bonifici sospetti. Nelle carte spunta il prete Don Mangili a Cremona, prete Cellino. Evidente anomalia tra le finalità dell'associazione e l'attività svolta da questi tizi. Un gestore di bar che aveva preso troppi soldi dalla regione. Prete, se lo conosci, lo eviti. Viva il libero pensiero, ora è sempre resistenza anticlericale. Leggiamo dal mio giornalino, dal mio piccolo libretto, piccolo notiziario anticlericale. Catafalchi dogmatici. Sono quelli tomistici, cioè di San Tommaso, e della filosofia scolastica medievale, da Gaetano Salvemini. Catafalchi è proprio quello dei funerali, no? Cattolici chiusi, sono i cattolici integralisti più fanatici, da Raffaello Morelli, Lo sguardo lungo, ETS Pisa 2011. Cavaliere dell'umanità, era così chiamato nel secolo XIX il filosofo Giordano Bruno, indomito difensore del libero pensiero, fino al supremo sacrificio, fu anche definito apostolo della scienza e anticipatore geniale di Descartes e Darwin. Leggiamo infine qualche data anticlericare dal mio calendario 2020. 2 agosto 1929. Pio XI condanna lo sperma effuso, anche per motivi terapeutici. 3 agosto 1931. Il frate cappuccino Giuseppe Ferrer annega miseramente a Gallipoli mentre faceva il bagno. 4 agosto 1918. Pastorale congiunta dei vescovi austriaci favorevole alla continuazione dello spaventoso bagno di sangue della Prima Guerra Mondiale. 5 agosto 2013. Scandalo al santuario di San Francesco da Paola a Cosenza. Sparito ben 1 milione di euro. 6 agosto 1926. Primo incontro clandestino tra il regime fascista e il fratello del futuro Pio XII Pacelli. 7 agosto 1626. Lettera che prova uno scambio di schiavi fra il principe di Bisignano Cosenza e il granduca di Toscana. Il clero acconsente. 8 agosto 1993. Appartenente all'Opus Dei denuncia la Guardia di Finanza di non aver percepito per 20 anni il suo stipendio di dipendente contabile della pleratura. 9 agosto 1854. Il boia di Pio IX, Mastro Titta, giustizia 4 persone colpevoli di reati comuni a Velletri, Roma. E poi dal libro dello studioso Del Col, Storia dell'Inquisizione in Italia, Andrea Del Col, e leggiamo un breve brano. Il testo raccoglie macabri bilanci delle vittime clericali. Solo ad Avignone, possedimento papale in Francia, l'Inquisizione ordinò 818 condanne a morte in soli 8 anni fra il 1566 e il 1574. A Roma sono documentate 128 condanne a morte per motivi di fede, ma mancano ben 28 registri su 39 originari della confraternita che registrava tutte le pene capitali ordinate dal papato. Un bilancio complessivo in Italia calcola, tra streghe, eretici ed ebrei islamici, un numero minimo di 1100 e massimo di 1400 roghi di carne umana ordinata dal clero. Bene, arrivederci alla prossima puntata. Saluti anticlericali.